Thank you. Thank you.

Oggi compriamo un Macintosh, con cui non puoi fare niente di niente di niente, però funziona ogni tanto. Yeah. Make it all sucks. Thank you. Thank you. Thank you.